Se sei un'impresa o un libero professionista, hai bisogno della PEC per attivare il tuo domicilio digitale, dove riceverai tutte le comunicazioni della pubblica amministrazione. Scegli la PEC preferita dagli italiani. Attivala facilmente su aruba.it. Il caffè della domenica di Maria Latella. Domenica mattina, un buon caffè e qualche domanda a un politico sempre di primo piano per capire dove stiamo andando, che cosa è successo nella settimana e se possibile che cosa succederà nei prossimi giorni. È stata una settimana con tanti eventi politici, prima di tutto l'attenzione della politica e delle famiglie, degli insegnanti al ritorno a scuola, ne abbiamo parlato già domenica scorsa con la ministra dell'istruzione Azzolina, e poi la campagna elettorale ormai a pochi giorni dalle elezioni regionali. Si segnalano gli attacchi a Matteo Salvini, al quale è stato impedito di parlare in un paio di occasioni, e poi il referendum sul taglio dei parlamentari, che anche qui ha visto accendersi la competizione tra il no e il sì. E di tutto questo e anche di altro parliamo con il vice segretario del Partito Democratico, Andrea Orlando. Buona domenica e buon caffè, Andrea. L'ha preso? L'ha già preso? Buona domenica. Sì, l'ho preso questa mattina presto, perché sono in viaggio per andare a un'iniziativa in Veneto e sono partito dalla Liguria, quindi siamo partiti presto. Quindi più di un caffè. Parliamo proprio di elezioni regionali. La sua Liguria viene data con vantaggio al centrodestra. Nelle altre regioni la partita è più aperta. Che cosa succede se il centrodestra conquista la Toscana o la Puglia o tutte e due? Qualcuno dice che sarà l'Armageddon. La partita è aperta ovunque, perché quando nei sondaggi a una settimana dal voto c'è ancora un numero di indecisi così alto come quello che stiamo verificando con i sondaggi, può succedere qualunque cosa, e quindi è una buona ragione per impegnarsi fino all'ultimo momento. Questa volta peserà molto, diciamo, l'incognita del Covid, la preoccupazione delle persone, bisognerà spiegare che si può andare a votare in sicurezza senza correre rischi, e quindi sono convinto che è difficile fare previsioni. Non credo che sarà una sconfitta in Toscana e in Puglia, e credo che bisogna saper concentrare l'attenzione su una questione fondamentale, dire a chi va a votare che non si vota per il Parlamento, non si sceglie il governo nazionale, si scelgono a livello regionale degli amministratori, e in verità si pone una domanda, che è una domanda fondamentale: se si vuole una sanità pubblica e un servizio universalistico, o si vuole andare verso altri modelli, e abbiamo visto la Lombardia, dove il privato pesa di più e dove, a mio avviso, i cittadini sono meno tutelati, soprattutto quelli meno abbienti, soprattutto quelli che hanno più difficoltà ad accedere al servizio. Senta, alla festa dell'Unità martedì scorso, lo so perché l'ho intervistato io, è venuto Conte, il Premier, che è stato accolto molto calorosamente. È lui il nuovo leader del Partito Democratico? No, il leader del Partito Democratico è Zingaretti. Conte credo sia un leader di una coalizione a cui si riconosce di aver affrontato due passaggi non banali in modo positivo. L'emergenza e il lockdown, si è sparato molto sul governo. Se guardiamo i numeri, l'Italia sta affrontando questa fase comunque difficile in modo migliore di molti altri paesi europei. E l'altro è il posizionamento dell'Italia nel contesto europeo. Vedete, credo che il fatto che si sia colto un successo su quel fronte sia in qualche modo provato anche dal fatto che la destra, che Salvini e la Meloni, non sparano più sull'Europa. È difficile sparare sull'Europa quando gli italiani leggono che 209 miliardi arriveranno proprio da lì. Ma questa non è una vita al totocalcio, è il frutto di un'iniziativa politica di cui Conte è stato protagonista. A proposito di spari, c'è chi pensa che nel centrosinistra cominciate a spararvi anche tra voi. Per esempio, ieri alla festa dell'Unità il presidente della Regione Emilia ha buttato lì che bisognerebbe far tornare nel Partito Democratico Matteo Renzi e Bersani, e su Bersani non ci sono state reazioni perché probabilmente viene già considerato un po' dentro, ma su Renzi Michele Bordo, vice capogruppo alla Camera del Partito Democratico, ha detto che quella di Bonaccini è stata un'uscita alla Tafazzi perché Renzi ha lasciato il PD per distruggerlo, e anche Bettini ha detto no, si tratta di due riformismi troppo diversi. Lei che ne pensa? Guardi, sono considerazioni assolutamente legittime quelle di Bonaccini. Mi chiedo se vadano fatte a una settimana dal voto, quando in quasi tutte le regioni, tranne le Marche e la Toscana, Italia Viva è fuori dalle coalizioni in cui sta il PD e ha scelto soprattutto il PD come primo principale bersaglio polemico e oggetto di aggressione. E francamente si può discutere di tutto, ma penso che adesso sarebbe più importante concentrarsi sulla campagna elettorale e dare una mano e anche un sostegno a tutti i nostri amministratori che sono in campo. Il Partito Democratico ha deciso di lanciare, anche con una raccolta di firme, una riforma costituzionale che prevede, tra le altre cose, anche la sfiducia costruttiva, cioè la possibilità del Presidente del Consiglio di licenziare un ministro. Due domande in una, abbiamo pochi secondi per la risposta, poi dovremo salutarci. La prima domanda è, lei pensa che con le preoccupazioni legate soprattutto al lavoro, dopo il Covid, questa riforma costituzionale riceverà attenzione dalla pubblica opinione, la seguiranno? E secondo, la sfiducia costruttiva consentirebbe, se passasse questa riforma, al Presidente del Consiglio di licenziare un ministro che non funziona, come succede in altri paesi. Ma qui in Italia, dopo le regionali, se ci fosse un risultato significativo per il centrodestra, il governo subirebbe dei contraccolpi? Ci potrebbe essere un rimpasto? Io penso che questo tema della contrapposizione un po' tra condizioni economiche, materiali e questioni istituzionali c'è sempre, però bisogna sforzarsi di spiegare ai cittadini che spesso affrontare le questioni economiche con un sistema istituzionale che funziona male è più difficile, quindi non sono due cose tra loro diverse, e credo che non si debba neanche, come dire, raccontare che si tratti di cose che non li riguardano, perché poi alla fine avere un Parlamento che ha difficoltà a deliberare su questioni magari anche urgenti, come abbiamo visto in questi mesi, rischia di essere un peso per tutti. Sulla questione della sfiducia costruttiva, in verità è un sistema che consente di tenere in piedi il governo finché non c'è una maggioranza alternativa, quindi è un elemento che introduce un dato di stabilità. La questione che consente l'ipotesi di poter cambiare i ministri, penso che corrisponda ormai a un dato di fatto. Nella nostra Costituzione i ministri formalmente erano nominati dal Presidente della Repubblica, ma in verità sempre più spesso si nota come ci deve essere un rapporto di fiducia diretta tra il Presidente del Consiglio e i ministri, in un quadro molto diverso dal 1948. Io credo che, a prescindere però dalla riforma istituzionale, non si tratti tanto di cambiare questo o quel ministro, ma di aprire una fase nuova, sicuramente sì, perché noi ci troviamo in una situazione, come ho provato a ricordare, nella quale saremo chiamati a spendere 209 miliardi in un paese che da molto tempo fa tagli, in un paese nel quale sostanzialmente c'è una difficoltà a mettere in campo progettualità. Quindi con chi lo deciderà Conte, ma che si tratti, come dire, di disporre la squadra in qualche modo in campo in un assetto diverso, è secondo me un'esigenza che deriva da questa. Ma perdoni Andrea Orlando, che significa mettersi intorno a un tavolo e rivedere le questioni? Significa che il Partito Democratico vorrà avere un maggior peso nelle decisioni relative proprio all'utilizzo del Recovery Fund? Che cosa significa? Cambierà qualche ministro, non cambierà? Perché non è chiaro, se si dice no al rimpasto ma ci vuole qualcosa di più profondo, che cosa si intende? Ma no, guardi, io non so, non escludo né che questo possa avere anche un effetto sull'assetto del governo, sull'esigenza di disporre di questa o quella risorsa, ma non mi pare questa la questione fondamentale. Che cosa fare lo dice l'Europa? L'Europa dice voi dovete avere progetti su transizione ecologica, su innovazione tecnologica e su lotta alle diseguaglianze sociali. Abbiamo tutti questi progetti in campo? Benissimo, allora non c'è problema. Siccome io penso che da molto tempo la capacità progettuale dello Stato è fortemente diminuita per ragioni anche legate al fatto che si è pensato per molto tempo che lo Stato dovesse solo regolare, non avesse più questa funzione, diciamo, di direzione generale, ecco, io credo che si debba fare un tagliando per tener conto di questa fase nuova. È come se in qualche modo si passasse improvvisamente da un tipo di gioco all'altro. Si tratta di adattarsi e si tratta non tanto di dare più peso a questo o quel partito, ma di concentrarsi esattamente sui filoni che l'Europa dice sono strategici, perché altrimenti il rischio è che quei soldi non riusciamo a prenderli e poi a spenderli adeguatamente. Domanda fulmine, abbiamo veramente 30 secondi. Cosa pensa dell'autocandidatura della senatrice Monica Cirinnà a sindaco di Roma? Ma penso che sia un contributo a mettere in moto un meccanismo che da troppo tempo incagliato, che dobbiamo sbloccare molto rapidamente, e mi auguro che ci siano altre candidature che possano rafforzare questo quadro. Dopodiché credo che Monica sia assolutamente una candidatura di grande livello e una combattente, una persona intelligente che può svolgere bene quel ruolo. Grazie Andrea Orlando per aver preso il caffè della domenica con noi. Penso che da adesso e poi ne prenderà altri, perché si è svegliato molto presto stamattina. Anch'io prenderò un altro caffè come sempre alla fine di questo programma, e poi ci continuiamo a sentire, perché adesso arriva Nessuna è perfetta.